9 in punto, la versione di Oscar. Il tema di oggi spero vi appassionerà, come appassiona sicuramente non solo il sottoscritto ma gli ospiti che tra poco vi presenterò. Forse appassiona un po' meno gli italiani, questo è il punto. Di che cosa trattiamo? Su che cosa vi chiedo di intervenire all'800240024 oppure di mandare i vostri sms al 349-238-6666 o la mail a 9@radio24.it. Su un tema che da qualche giorno, da qualche settimana interroga molti editorialisti e intellettuali del nostro paese, ed è un tema che si riferisce a un anniversario, l'anniversario che ricorre a marzo dell'anno prossimo, è il 150esimo dell'Unità Italiana, e la caratteristica questa volta è che mentre il 50esimo anniversario dell'Unità Italiana nel 1911 e il centenario, le cui manifestazioni cominciarono addirittura 2 anni prima, nel 1959, poi 1960 e 1961, scandendo dalla seconda guerra d'indipendenza, dal centenario della seconda guerra d'indipendenza, le diverse tappe del momento clou del Risorgimento, quindi molto sentito all'epoca. Se si immagina a Torino che cosa significò un intero quartiere, Italia 61, che nacque sulle sponde del Valentino, la monorotaia, eccetera. Ecco, quest'anno è evidente a tutti, e alcuni intellettuali lo hanno richiamato con forza, che l'avvicinarsi di questo 150esimo anniversario in realtà non ha dietro di sé né il significato evocativo né il coinvolgimento pubblico istituzionale né tantomeno, a quanto pare almeno, l'adesione popolare che aveva in occasione del 50esimo e del centenario. Come mai? È un tema che ricorre naturalmente nella pubblicistica italiana da qualche anno a questa parte, interrogarsi sulla morte della patria, il venir meno dell'idea di nazione, l'erosione che ha subito negli ultimi decenni il senso di comune appartenenza a ciò che siamo abituati dalla rivoluzione romantica e dal suo compimento a considerare una nazione, una d'arma, di lingua d'altare, di memoria, di sangue, di corci, diceva Alessandro Manzoni. Tutto questo oggi al centro della nostra trasmissione e dei vostri interventi. E abbiamo due protagonisti del dibattito di queste settimane. Innanzitutto colui il quale ha suscitato ancora una volta con il suo intervento questo confronto, Ernesto Galli della Loggia, che è uno storico, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Galli della Loggia. Buongiorno. E con noi anche Mario Pirani, editorialista di Repubblica, che a sua volta si è cimentato sul tema. Buongiorno Pirani. Buongiorno Carlo. Galli della Loggia, nella mia sintesi, diciamo così, un po' disordinata, ma tentando anche di coinvolgere i nostri ascoltatori, ho sicuramente smarrito qualcuno dei punti. Uno dei temi che lei ha sollevato nel ricordare l'allarme di alcuni componenti del Comitato dei Garanti, di cui gli stesso fa parte, in vista di questo 150esimo anniversario, è stato il fatto di ricordare a tutti: ma guardate come si è scelto anche di commemorare il 150esimo, invece di pensare a una grande iniziativa culturale, un grande museo eccetera, una lista di opere pubbliche, di 11 opere pubbliche più o meno forse interessanti o utili, e questo è il modo. Quando si scelse però questa modalità, che io ricordi non ci fu un grande fervore, oppure no? Dunque, innanzitutto, sì, come lei ha ben ricordato, in sostanza il mio editoriale sul Corriere della Sera solo di questo si occupava, cioè del modo, a mio giudizio, sbagliato, fino al limite della bizzarria, con cui il governo Prodi, perché l'iniziativa è partita appunto allora, decise di commemorare l'anniversario, cioè appunto rinunciando a qualsiasi, come dire, progetto culturale interpretativo circa la storia del paese, 150 anni eccetera, e invece concentrandosi su una serie di inaugurazioni di opere pubbliche più o meno necessarie in varie città d'Italia, alcune città veramente coinvolte nel processo risorgimentale, altre invece a mio sapere del tutto strane, tipo Isernia, insomma, che non mi pare abbia svolto un ruolo particolare nelle vicende del risorgimento. Questa decisione di celebrare in questo modo il 150esimo anniversario fu preso, ripeto, dal ministero Prodi e quindi dal ministro Rutelli, i quali poi aggiunsero con una specie di, forse così, atto di resipiscenza, La costituzione di un comitato pletorico di 40 garanti presieduto dal presidente Ciampi, a cui poi veniva invece delegata, oltre la funzione di sovrintendere non si sa come a dei progetti che erano progetti di carattere così ingegneristico, urbanistico, quindi insomma, si capisce bene come questi 40 signori che erano intellettuali, scrittori, giornalisti, potessero ormai sovrintendere a cose del genere, però appunto a questo comitato di garanti veniva poi dato l'incarico di scegliere, non si sa bene come e soprattutto con quali risorse, tra progetti culturali aggiuntivi, diciamo così, rispetto a questo mastodontico programma di opere pubbliche, che tra l'altro allo stato attuale sono in stato di avanzamento dei lavori al 10%, tutte, quindi non si sa se entro il 2011 potrà qualcuna di queste essere terminata o no. Poi nel frattempo sono anche mancati i soldi, quindi questo comitato di garanti non ha potuto neanche scegliere fra le centinaia di proposte più o meno bislacche che gli sono arrivate da varie parti d'Italia. Quindi lo stato è questo, la questione è questa. Io mi sono limitato semplicemente a sottolineare come in nessun altro paese d'Europa, penso, si sarebbe deciso di celebrare il 150° anniversario, una data importante della propria storia nazionale, in questo modo, così, a mio giudizio, insulso e privo di qualsiasi anima. Pirani, in realtà mi pare che poi chi ha seguito Ernesto Galli della Loggia sul tema da lui sollevato abbia finito quasi sempre, ed è un caso raro per il dibattito italiano, qualsiasi sia il suo punto di vista, l'opinione culturale, la scuola in cui si riferisce, ma quasi sempre per dare una ragione a Ernesto Galli della Loggia, perché è difficile darti torto nel merito questa volta. Però la cosa mi ha colpito perché abitualmente il nostro dibattito, il nostro confronto pubblico è un po' tribale, di solito si tende a comporre due presunti schieramenti che hanno riferimenti di presunta politica e a darsene di santa ragione a prescindere dal merito. Questa volta mi pare che almeno su questo c'è una specie di convergenza generale nel giudicare veramente indifendibile questa modalità di affrontare il 150°, o no? Direi in linea di massima sì, salvo il fatto che alcuni giornali nel riferire poi nei giorni successivi questa polemica hanno omesso discretamente di nominare colui che, per carità del tutto casualmente così, l'aveva suscitata, cioè di fare il nome mio. Il tribalismo continua, il tribalismo è una caratteristica forsennata dell'italiano medio, a cui insomma appunto con cui dobbiamo fare i conti. Però certo, diciamo così, nell'insieme quello che lei dice è giusto, in questo caso, perlomeno negli altri non so, giudichi lei. In questo caso sì. Ma non aveva fatto a me la domanda. Pirani, in effetti la domanda era lei, ma adesso sta rispondendo della Loggia e poi rispondere anche lei. È vero, ma è la bellezza di un colloquio amichevole. Come lei non aveva può pensare che ero io che rispondevo. Non si a parlare con me. No, no, no. Pirani, prego. Io capisco la vis polemica di Ernesto, ma la sua iniziativa è stata accolta da tutti positivamente. Del resto, quando Repubblica è intervenuto, lo ha citato più volte, lo ha citato Scalfari, poi anche in un suo editoriale sull'Espresso, e noi abbiamo messo tra i testi fondamentali, soprattutto quelli legali della Loggia, per aprire la discussione. Ma la cosa, da questo punto di vista, secondo me, è di secondaria importanza. Sono meno d'accordo con l'intervento di oggi di Galli della Loggia, perché mi è parso intriso di una polemica. Sì, Galli ha le sue ragioni di essere, ma non è la polemica centrale, quella contro il governo Prodi. La questione del dibattito sulla nazione italiana, sul valore dell'unità d'Italia, al di là di questi aspetti celebrativi, senz'altro manchevoli, è stato il dibattito aperto da Carlo Azeglio Ciampi quando era Presidente della Repubblica, che avvertiva il venir meno di un senso di appartenenza alla nazione italiana e ha cercato attraverso proprio aspetti celebrativi, le ricorrenze dei giorni della resistenza, la resistenza soprattutto dell'esercito, da Cefalonia a Piombino, il ritorno delle celebrazioni sull'altare della patria, erano tutti aspetti, vogliamo dire, retorico-celebrativi, ma che avevano il senso di richiamare l'importanza dell'idea di nazione di fronte agli italiani. E comincia lì la discussione, e su quella ci furono posizioni, a mio avviso, rispettabilissime ma diverse, sostanzialmente tra chi come Ernesto sosteneva che l'8 settembre era stata la data della morte della patria e chi diceva è stata una data di catastrofe, ma da quella catastrofe è sorta la resistenza dal primo momento attraverso l'esercito, dunque anche il momento della risorgenza della patria. Sono due opinioni, a mio avviso, rispettabilissime e la dialettica del confronto è servita. Ma venendo all'oggi, a mio avviso, il problema sollevato sul Corriere, da Galli e poi da altri, poi ha parlato De Rita, poi ha scritto Pane Bianco, eccetera, e a cui io mi sono permesso di rispondere, è che è un problema essenzialmente politico. Noi, dalla caduta di quello, dall'inizio dell'eterna transizione tra la prima e la seconda Repubblica, ci siamo trovati in una condizione singolare, cioè il venir meno dei vecchi partiti, cosa già di per sé traumatica, venir meno che era dovuto a due cause fondamentali: la caduta dell'Unione Sovietica e dei partiti comunisti e il loro tentativo in Italia di trasformarsi e rinnovarsi, e la caduta degli altri partiti in seguito a Tangentopoli. Ebbene, questo snodo della nazione italiana si è incrociato non con il sorgere, non so, di forze liberal-democratiche di destra che avrebbero potuto assicurare la transizione. Pensiamo alle forze a Sarkozy o alle forze del post-gollismo in Francia o a quello che è il partito cristiano-democratico tedesco, eccetera, si incrocia con qualcosa di assolutamente inedito. Da un lato un partito che sorge dalla trasformazione di un'azienda, Mediaset, che diventa Forza Italia, con un leader, anche questo, come dire, impolitico o antipolitico, come Berlusconi, che proprio perché vengono da un'azienda non hanno dietro di sé la storia, non sono depositari della storia d'Italia. Avrebbero potuto esserlo AN era quantomeno depositaria dell'idea nazionalista della nazione italiana, di un'idea estremista che ha portato poi alla guerra, ma comunque aveva in sé una forte componente di identità nazionale. E la comparsa della Lega. La comparsa della Lega, che è un fenomeno del partito localistico, che c'è stato in Austria, c'è in Danimarca, c'è in Spagna, c'è persino in Inghilterra con le rivendicazioni del Galles o della Scozia. Ebbene, in Italia assume una dimensione diversa. Assume una dimensione diversa perché diventa, come dire, il partito di riferimento o di antitesi degli altri due, di quello che si chiamerà poi PD, Partito Democratico, e di quello che è oggi il partito della Casa delle Libertà. La devo interrompere un secondo, Pirani, perché è chiaro quello che lei ha detto. Lei riconduce il problema alla politica della transizione tra la prima e la seconda Repubblica, al fatto che, venito meno le matrici dei partiti storiche, inevitabilmente si attenua anche l'idea di nazione, di patria, si racconta il racconto politico condiviso come quello della resistenza. Io naturalmente appartengo a una cultura un po' diversa, cioè io che pure mi sono formato in una scuola culturale risorgimentale, risorgimentalista, spadoliniana, diciamo così, sono un po' dell'idea che poi l'attenuazione è tipico anche della Prima Repubblica, cioè il problema è che le grandi forze politiche che portano le masse popolari nella storia, cattolici da una parte, socialisti e comunisti dall'altra in Italia, sono quelli che in realtà con il mito della Resistenza rifondano a modo loro, giustamente, il mito costitutivo per eccellenza, cioè la Repubblica, rispetto a un paese la cui unità veniva da una classe dirigente liberale, dalla destra storica, che sia nelle due accezioni, destra storica e la sinistra, quella che poi prende il potere rispetto al pareggio del debito pubblico, del deficit pubblico nel 1876, in realtà era una storia condivisa ed era una storia che non aveva niente a che fare con il mito rifondativo delle masse popolari portate nella politica dai cattolici da una parte e dai socialisti e comunisti dall'altra. Quindi io la penso un po' diversamente da questo, non credo affatto che sia l'ultimo quindicennio e Berlusconi da una parte e Lega dall'altra, ma questa naturalmente è la mia interpretazione. Sentiamo alcuni ascoltatori e torniamo poi a sentire Galli della Loggia sul merito, cioè se questa lettura della politica degli ultimi 15 anni sia il punto di fondo che ci fa smarrire la percezione di una identità comune, di una nazione comune, come missione ancora da compiere e che comunque ci accomuna più che dividerci. Abbiamo Andrea da Padova, prego Andrea. Buongiorno, prego. Tamino, buongiorno ai vostri illustri ospiti. Io abbasso molto il tono, il livello degli interventi con il mio, dicendo semplicemente questo. Io sulla questione, sul punto, cioè i 150 anni e l'unità d'Italia, il risorgimento, ho questa opinione. Sono abbastanza contrario a iniziare una serie di sensi di colpa collettivi sul fatto che non riusciamo a festeggiare questo evento, un evento che c'è stato, ci sono delle ragioni storiche ben precise, è stato ricordato evidentemente l'azione di Presidente Ciampi che abbiamo avvertito tutti quanti. Il punto secondo me è che il dibattito pubblico su queste cose deve esistere in quanto interessi davvero le persone, cioè io per esempio so che, è la mia opinione evidentemente, su date come il 25 aprile c'è una capacità maggiore da parte di alcuni, perlomeno di noi, di come dire mobilitarci l'unità e attribuirgli un senso, come attribuirgli un senso, ci ritroviamo. Mentre lei dice, se l'unità in definitiva agli italiani ha un vasto numero di loro, la schiacciante maggioranza dice oramai poco, è inutile che state lì a prenderlo, se ho capito bene è questo? Per carità, è evidente che dal punto di vista del dibattito storico questo è fondamentale, però da questo a farne una questione di dibattito e pubblico con conseguente classico nostro senso di colpa sul fatto che non riusciamo nemmeno a festeggiare l'unità d'Italia, il risorgimento eccetera eccetera, io per esempio trovo molto più interessante il periodo del 400 e 500 in Italia, per dire la verità personalmente, però insomma, ognuno poi ha le sue opinioni. Casomai, se vogliamo trovare un'unità, cerchiamola sulle cose che sono state fatte, per esempio cosa ne so, il movimento popolare che dal Partito Socialista ha portato alla nascita del PC, piuttosto che il grande movimento della Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera, mi sembrano argomenti di unità d'Italia più interessanti piuttosto che scartabellare nei nostri vecchi libri. No, ma vedete che lei però propone percorsi identitari di comune matrice politica. Una nazione è un'altra cosa, ecco, non vorrei dire una nazione, ciò che unisce tutto. La ringrazio, Andrea. Non possiamo alimentare dibattiti paralleli. Emanuele da Roma, prego, Emanuele. Salve. Vabbè, il mio intervento pure è un pochino più semplice. E volevo semplicemente dire che dal punto di vista della gente, noi non la sentiamo e mi dà anche fastidio l'idea di unità d'Italia festeggiata quando in contemporanea o nelle scuole, come lo studiate io, mancano pezzi di storia o vengono travisati pezzi di storia. Ma neanche l'unità d'Italia, di solito la polemica che si sente sempre è che non si arriva a studiare troppo bene, diciamo, gli ultimi decenni di storia italiana. Ma se nel libro di storia Garibaldi, faccio un esempio, è un eroe assoluto e si dice che ha liberato la Sicilia dall'oppressione borbonica, e si omettono le stragi fatte da Garibaldi, da Bizio in Sicilia e nel sud, questo non è giusto. A me fa male. Grazie Emanuele, qui siamo agli effetti di un filone che ha animato il confronto storiografico negli ultimi decenni del nostro paese, quello, l'importanza sottovalutata dalla storiografia ufficiale delle cosiddette insorgenze, e c'è tutto un filone di storiografia cattolica di matrice rivendicazionista su questo, che è legittimista, che naturalmente ha accusato la storiografia imperante proprio di essere diventata uno strumento dell'unificazione italiana nelle mani della classe dirigente, della destra storica che realizzò l'impresa. Ernesto Galli della Loggia, e come vede i primi interventi casuali dagli ascoltatori oscillano tra il fatto, ma tutto sommato dell'unità non ce ne importa molto, al fatto che cosa dobbiamo celebrare è un'unità in cui a 150 anni di distanza il mito e la strumentalizzazione del mito prevalgono ancora sulla capacità di aver fatto chiarezza su questo processo di costruzione dell'unità. Che dice? Che impressione ha da storico? Ma innanzitutto vorrei dare a ciascuno il suo, perché si è dato l'impressione di appunto dare tutta la responsabilità della situazione attuale delle celebrazioni del governo Prodi. Ho dato un'impressione sbagliata, perché naturalmente il governo Berlusconi non ha fatto altro che continuare esattamente la stessa linea di Prodi, mantenere quelle opere pubbliche e non fare assolutamente nulla, quindi le responsabilità vanno equamente condivise tra il governo Prodi e il governo Berlusconi, su questo vorrei essere chiaro. E il ministro Bondi non è riuscito a mutare alcunché del progetto iniziale. Ma dunque, innanzitutto c'è questa idea appunto da nessuno condivisa, che l'unità d'Italia sia qualcosa di importante. C'è l'idea anche abbastanza ingenua nel secondo spettatore che le nazioni possono nascere esclusivamente così, in un clima idilliaco in cui tutti sono d'accordo, in cui c'è, diciamo, di una sorta di momento magico di rispetto della libertà, dei diritti di tutti. Non è così, nessuna nazione è nata così. Gli Stati Uniti d'America sono nati mantenendo la schiavitù e non mettendola al bando nella loro costituzione. La rivoluzione francese, la Francia moderna, è nata da una rivoluzione piena di episodi di stragi, anche l'Italia è nata, diciamo così, anche in Italia, nella storia italiana ci sono stati episodi, come dire, che oggi ci appaiono negativi. Il tema delle insorgenze è un tema che riguarda il periodo napoleonico, per la verità, la rivendicazione, diciamo così, dell'anima cattolica del popolo italiano contro il giacobinismo invasore è una cosa che è prima del Risorgimento. La cosa di Bixio, le stragi, cosiddette stragi di Garibaldi in Sicilia, erano contro, diciamo così, dei contadini che volevano interpretare l'unità d'Italia all'insegna, diciamo, della divisione delle terre, all'insegna della dimensione sociale. Per far questo massacrarono a Bronte un gruppo di proprietari fondiari, e Garibaldi, che era impegnato a fare l'Italia, non poteva così tollerare politicamente che dietro le sue spalle scoppiasse una rivoluzione sociale che avrebbe sconvolto tutti i suoi piani. Queste cose vanno capite, vanno studiate, vanno interpretate soprattutto in maniera non moralistica, come gli italiani in genere hanno molto spesso la tendenza a fare, a non capire la necessità, il senso dei processi storici. Anche quella sul 25 aprile, data più importante del 17 marzo del 1861, una data che la stragrande maggioranza degli italiani ignora, che è la data appunto della proclamazione del Regno d'Italia, cioè dello Stato italiano unitario, dimostra come appunto la prevalenza della passione politica, perché è vero che il 25 aprile è una data, io credo, in cui si deve riconoscere tutto il paese e tutta la nazione, ma una data rifondativa che viene nel corso di un lungo itinerario che però inizia un momento X, che è appunto il 1861. Non ha senso celebrare il 25 aprile senza ricordarsi e celebrare anche il 1861, perché l'Italia appunto non è nata certo il 25 aprile, né coloro che furono protagonisti del 25 aprile pensavano che l'Italia nascesse lì, pensavano che nascesse una nuova Italia, un'Italia più giusta, più democratica, più libera, ma si richiamavano assolutamente tutti, in un modo o nell'altro, alla dimensione unitaria che era ben precedente. Quindi è una deformazione di esasperato politicismo voler considerare appunto il 25 aprile, distinguerlo, separarlo e dire sì, lì è la data parti in cui mi riconosco, non nelle altre. Ci ha raggiunto il vice ministro per le infrastrutture Roberto Castelli. Buongiorno Castelli. Buongiorno. Non so, lei forse non era collegato nella prima parte. Nella prima parte Pirani, che abbiamo in linea e quindi torneremo anche con lui, Mario Pirani, editorialista della Repubblica, diceva che come fenomeno che ci deve aiutare a capire l'affievolirsi progressivo del senso della comune appartenenza a una nazione, confermato poi dalla prima telefonata che abbiamo avuto con la gente che ci ha detto ma insomma, noi tutto sommato del 150esimo dell'unità d'Italia non è che ci preoccupe molto, deriva anche dal fatto che insomma negli ultimi 15 anni sono nati partiti che hanno sostituito i precedenti, i partiti storici della prima Repubblica Italiana, e poi è nata la Lega, che insomma hanno contribuito tutti a questo affievolimento. E lei che dice da questo punto di vista? Ma intanto, se mi consente una notazione storica, per dire come la storia non è univoca come sembra voler far credere il dottor Pirani, lui parla di Garibaldi. Garibaldi è un massone, come lo leggo io, che va in Sicilia finanziato dai massoni inglesi, sbarca a Marsala sostenuto dai cannonieri inglesi e guarda caso a Bronte massacra i contadini, sarà una casualità, però le terre che i contadini avevano occupato erano di nobili inglesi. Quindi la storia si può leggere in vari modi, ma adesso al di là di questa polemica storica, io ho voluto citare questo fatto per dire che probabilmente c'è bisogno di una rivisitazione storica degli eventi del risorgimento, questo lasciamolo agli storici, adesso passiamo alla politica, ma io credo che la Lega non sia la causa di questo sentire degli italiani, ma probabilmente l'effetto politico più importante. Umberto Bossi raccoglie il malessere che c'è nel paese, nella parte del nord del paese, perché poi a me io credo che il sentimento nazionale debba nascere dal basso, non imposto dall'alto, come sembrano adesso voler fare alcuni personaggi anche esimi come Ciampi. Ciampi sappiamo come la pensa, lui dice legittimamente la sua opinione, ma mi sembra abbastanza paradossale pretendere di instillare dall'alto un sentimento nazionale. Il sentimento nazionale deve nascere dal popolo. Ora è chiaro, sarebbe ingiusto dal punto di vista storico pensare che dal 1861 a oggi non sono stati fatti enormi passi in avanti, ma il sud è completamente diverso anche dagli anni 60 a oggi, quindi questo è noto. Però permangono continuamente delle differenze che evidentemente tendono ad affievolire il sentimento nazionale, anche perché il sentimento nazionale secondo me deve andare d'accordo anche con l'amore per le proprie tradizioni locali, cosa che in Italia invece si è tentato in tutti i modi di soffocare. Io ho un sospetto che giro a Pirani insieme poi alla sua replica a queste considerazioni aggiuntive tanto di Ernesto Cali della Loggia che di Roberto Castelli. Ho un sospetto che negli anni sia poi venuta anche più evidente l'impulso agli italiani, più connaturato l'impulso agli italiani di far di conto tra ciò che danno e ciò che ricevono, e tra ciò che danno e ciò che ricevono dall'interlocutore molto, diciamo così, pesante, molto esigente, pubblico, che ha un'articolazione territoriale, una capacità di offrire a ciascuno di noi nelle diverse parti del territorio degli standard molto diversi, e questo confronto tra ciò che lo Stato è in grado di dare alle Alpi o in Sicilia, secondo me ha avuto il suo peso in questo affievolimento dell'interesse collettivo verso temi come quelli di cui discutiamo oggi, perché è una disaffezione evidente, una disaffezione tangibile che tocca tutti i giorni i propri livelli di vita, come organizzarsi quando uno sta male, e questo temo che abbia un'importanza addirittura prioritaria rispetto, diciamo, ai dibattiti un po' letterari e altri. Lei non trova, Pirani? Ma io vorrei intanto pregarla di mantenere un equilibrio, sì, nel dibattito. Eccoci qua. Qui ci sono stati tre interventi di Ernesto Galli della Loggia, uno suo più o meno su quella linea, e penso l'intervento di Castelli. Dall'altra parte c'è quell'ultimo residuo che difende una certa idea dell'unità d'Italia, che sono io. lei mi ha interrotto prima e mi ha dato la parola ora. La pregherei di mantenere un maggiore equilibrio, primo. Seconda cosa, non posso certo rispondere a tutti. Per quanto la questione che lei ha sollevato, cioè che le due forze fondative, diciamo, dell'Italia Democratica dal 1945 in poi, l'ADC e il PC, avevano origini in qualche modo esterne all'Unità d'Italia, è in gran parte vero, cioè l'ADC faceva riferimento al mondo cattolico, al Vaticano, il PC all'Unione Sovietica, all'internazionalismo, però bisogna dire per cui le fortunate contraddizioni che la storia dà, negli anni, soprattutto negli anni dal 45, possiamo dire fin verso il 60, i due personaggi che guidarono questi partiti, De Gasperi e Togliatti, per ragioni non certo etiche, ma per ragioni del giudizio politico, storico che davano, hanno impresso sia alla DC che al PC dei contenuti fortemente nazionali. L'ADC voleva avvalorare, e c'è riuscita, la capacità dei cattolici, che non dimentichiamoci, erano fuori, non riconoscevano, l'hanno riconosciuto il concordato nel 29 con Mussolini, ma come forze democratiche erano fuori del processo politico italiano, e De Gasperi li ha portati dentro, e li ha portati dentro con tale senso della unità democratica nazionale che ha centrato i suoi governi sul centrismo, cioè sull'alleanza con i partiti laici, i socialdemocratici, i liberali e i repubblicani, prima ancora dell'arrivo dei socialisti, e su questo si è scontrato persino con Pio XII, e della capacità dei cattolici di interpretare l'unità della nazione italiana, se vogliamo in senso interclassista, ha dato delle prove inconfutabili. Togliatti ha intuito che o riusciva a non solo a spogliare del contenuto rivoluzionario sovietico l'azione pratica dei comunisti, ma persino degli aspetti classisti vetero-socialisti, e a far diventare il Partito Comunista il partito che costituzionalizzava le masse popolari italiane, è stata un'operazione sentita, reale. E tutta quello che si chiamò poi il catto comunismo, la legislazione sociale, il welfare, eccetera, sono fatti in quell'impronta della unificazione degli italiani attorno alla questione meridionale, l'eguaglianza dei salari, l'eguaglianza delle riforme sanitarie o scolastiche, l'eguaglianza della scuola, cioè c'era una forte spinta dei due partiti fondativi della democrazia a dare in modo contraddittorio con quella che è la loro storia. Se volessimo fare un'analisi invece che riguarda la storia, è un altro tipo di racconto, ma questo ha pesato sugli italiani, li ha formati gli italiani fino agli anni 60-70. Il venir meno con la crisi dei partiti, viene meno il senso. Però Pirani, non la interrompo, è solo per farla notare una cosa, non capisco la forte missione identità nazionale di quei due grandi partiti storici, non la metto in discussione, dico solo che la loro capacità rifondativa dell'identità italiana intorno a se stessi, ai loro valori, a questa grande convergenza cattocomunista, che ancora lei, capisco, è pieno di nostalgia nel descrivere, ma in realtà ha potentemente spazzato via dalla testa degli italiani, della loro vita, il valore continuità anche elementare, il più elementare possibile rispetto al motto risorgimentale, e questo cavolo di modo che non sarà stato un granché, ma è stato l'unico in cui siamo riusciti a fare l'unità. Io capisco quello che lei dice, ma non sono d'accordo. Io sono uscito negli anni 60. Lei se la ricorda la disperazione di Spadolini negli ultimi 15 anni della sua vita nel tentare di ricordare agli italiani cosa era il risorgimento, non il 25 aprile. Però, scusa Giannino, la mia generazione, che è più vecchia di tutti voi, ma anche le altre successive, si sono anche formate su libri di scuola in cui il risorgimento è stato un mito fondativo importantissimo. non solo è stato così importante, ma esso si è tradotto poi nella, lo vogliamo chiamare strumentalismo, ma non era solo strumentalismo, nel fatto che per esempio la Resistenza si è intitolata Garibaldi, Garibaldini, le Brigate Garibaldi, cioè in questo il tricolore, l'uso del tricolore, c'è stata una, un tentativo a mio avviso riuscito di far identificare il movimento che veniva addirittura da un partito legato all'Unione Sovietica e da un partito legato al Vaticano con la storia d'Italia, con la continuazione di quella storia, e questo a mio avviso si è mantenuto a lungo. Quando nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, dopo Tangentopoli, come dicevo all'inizio, c'è stato il crollo di tutto questo e un distacco dallo Stato più che dalla patria. Gari della Loggia, se dovesse dare un giudizio di l'eco che ha suscitato questo suo intervento, era partito dal dire semplicemente ma che modo è con le opere pubbliche, non c'è più evidentemente un idem sentire rappresentato dai politici, neanche su come ci si avvicina a questa festa, ma se dovesse dare un giudizio intanto sul dibattito che si è sollevato, pienamente confermato la sua attesa molto bassa, mi pare di capire, oppure c'è qualche elemento per ritrovare tutti insieme una modalità diversa di qui al marzo dell'anno prossimo? È una cosa indegna questo dibattito. Perché? Mi perdoni, Pirani, non la faccio finire, abbia pazienza, ma lei si rende conto che anche lei mi sottopone al fatto che ci sono numero di secondi e numero di minuti, ho detto, mi scusi un secondo, ci sono benissimo, nel dibattito democratico sotto elezione c'è la par condicio, Mario Pirani abbia pazienza, mi conosce da quando sono ragazzino, ma è possibile volermi attribuire, le ho detto, dopo che parlava da 9 minuti e 45, non è la quinta volta, le ho detto rifacciamo un altro giro, abbia pazienza, ma com'è possibile voler ridurre il confronto a secondi per ciascuno? Ma di che paese siamo figli quando i migliori editorialisti pensano che sia questo il giornalismo? Mi metto a urlare, sì, mi metto a urlare, dottor Pirani, perché con tutto il rispetto che ho per lei, ed è assoluto, non credo che il problema sia semplicemente quello di dire 10 minuti a testa per un numero minuto uguale per tutti, condurre una trasmissione, come non lo è fare un giornale. Allora, bisogna spogliarsi di questo diritto? Me ne spoglio, però intendiamoci, questa maniera di condurre l'informazione e di pretendere che sia così è una maniera che dà l'idea di quanto non abbiate un terreno condiviso tutti voi, non io come conduttore di parte, voi non ci avete un terreno condiviso, questo è il problema, e se non celebriamo l'unità italiana deriva anche da questo. Questa è la mia modesta opinione. Pirani mi ha fatto sfogare, benissimo, adesso non la interrompo più, prego, prenda la parola. Io voglio soltanto terminare quello che stavo dicendo, almeno una volta. Allora, sto dicendo che la situazione che si è creata oggi, che Galli della Loggia ha denunciato cominciando dal suo primo articolo, è che oggi siamo in una situazione di crisi dell'idea nazionale, dell'unità italiana, e che secondo me questo sorge per cause politiche. E quando porto l'attenzione sulla questione della Lega, non è perché imputo la Lega di essere quello che è. Ci sono partiti localistici in tutta Europa, svolgono il loro compito. In Italia perché tutto questo è diventato dirompente? Perché di fronte ad un partito senza memoria, il partito Forza Italia Mediaset, è un partito in perdita di memoria e che ha perduto identità come il PD, ha influenzato potentemente e la maggioranza e l'opposizione. L'opposizione, quando era maggioranza, che per inseguire la Lega ha fatto la modifica unilaterale della Costituzione con la modifica del titolo quinto, in cui si è dimenticato o non ha voluto ribadire il principio dell'interesse nazionale come interesse prioritario. Il Partito delle Libertà, che oggi lascia che alla Lega la più ampia, direi, la titolarità ideologica dell'azione di governo, e si arriva ormai a chiedere che gli insegnanti facciano una prova di dialetto, che i presidi non siano dell'Italia meridionale quando sono nel nord, e adesso Bossi chiede che si eleggano dei giudici nell'Italia settentrionale. Tutte cose che potrebbero essere folcloristiche se fossero di un partito di minoranza, diventano tragiche quando influenzano fortemente gli altri due partiti. da parte di un partito che, non dimentichiamolo, la Lega ha cominciato dicendo ci puliamo il culo con il tricolore. Ho detto quanto volevo dire. Grazie Pirani. Galli della Loggia. Guardi, io vorrei dire soltanto una cosa. Ormai mi pare che questo dibattito sia preso altre strade, forse rispetto a quelli iniziali. Che la ricostruzione che Mario Pirani fa della crisi o non crisi del sentimento nazionale italiano praticamente, diciamo, si è contraddittoria con lo stesso, diciamo, sì, apprezzamento che lui fa del presidente Ciampi. In sostanza, se ben capisco, quando ci sono al potere, al governo, delle forze politiche che sono simpatiche a Mario Pirani, il sentimento nazionale prospera e c'è. Quando ci sono al governo forze politiche che non sono simpatiche a Mario Pirani, il sentimento nazionale decade. Ma se la sua ricostruzione fosse vera, cioè la DC e il PC hanno grandemente contribuito al radicamento del sentimento nazionale, come mai allora il presidente Ciampi, eletto nel 2000, cioè dopo appena 6 anni che era finita la Prima Repubblica, ha sentito il bisogno di compiere quell'azione meritoria che tutti gli riconosciamo, di rilanciare il sentimento nazionale? Erano bastati 6 anni dal 1994 al 2000, tra l'altro con dei governi come quello di Dini, altri governi che non vedevano in posizione centrale la Lega. Sono passati 6 anni di Prima Repubblica, di Seconda Repubblica per cancellare il sentimento nazionale così fortemente radicato in 45 anni di Prima Repubblica dalla DC e il PC. Mi sembra un'ipotesi ricostruttiva delle cose molto, molto fragile. Ma non regge. In realtà la crisi del sentimento nazionale viene da lontano, implica cose profondissime della storia italiana, il rapporto drammatico tra l'insieme del paese, soprattutto le masse popolari, e la costruzione dello Stato nazionale. Non può essere scandita dall'andata al governo della destra o della sinistra. Sono cose molto più complesse e secondo me vanno appunto maneggiate con la consapevolezza di questa complessità, sottraendole alla polemica politica. Castelli, il punto concreto da cui poi siamo partiti ed è partito l'editoriale di Galli della Loggia, cioè le modalità un po' singolari, scelte dal governo Prodi e confermate dal governo attuale, ce l'ha ricordato Ernesto Galli della Loggia, per celebrare questo 150esimo. Qui come componente del governo, sia pur non titolare di una ovviamente competenza diretta sulla questione che spetta a Bondi, alla presidenza del Consiglio, lei che dice? Guardi, salto un po' di passaggi perché mi pare capire che non c'è più tempo. Però io dico questo, nel dopoguerra il tentativo di unire sempre più questo paese, si basa anche su un patto che potremmo chiamare il patto saraceno, e cioè si dice il sud è arretrato, riversiamo notevoli risorse nel sud per riportarlo allo stesso livello del resto del paese, dopodiché si può concretizzare nei fatti una vera unità, che significa anche avere un paese omogeneo anche dal punto di vista socio-economico. Cioè lei intende Pasquale Saraceno, ecco, lo dico Pasquale, perché Saraceno, ci ascolta, esatto, e pensa che lei stia evocando i Mori. Portola, eccetera, eccetera. Non cito salto tutti i passaggi, sì, evidentemente sì. Per brevità do per scontato che tutti conoscano le sue teorie. Che cosa accade? Oggi questo patto, che è stato accettato anche dal Nord, direi, fino agli anni 80, oggi viene visto dal Nord come un patto scellerato, che è diventato non più un intervento di natura eccezionale per poter risollevare il Sud, ma è diventato il modo di vita del Sud. Questo è il dato. E questo che è da ciò che nasce questa profonda ribellione, e soprattutto da fastidio poi essere citati anche per razzisti. Citiamo il caso dei direttori. Da cosa nasce il caso dei direttori? Nasce da un imbroglio, perché è un vero e proprio imbroglio, che viene fatto al Sud, per il quale i provveditorati del Sud riescono qualificare molti più direttori di quanti non volesse la legge, e oggi costoro che sono stati qualificati al di fuori delle norme di legge superano in graduatoria i direttori del Nord che avrebbero diritto ad andare appunto nelle graduatorie. Quindi viene vissuto come uno scippo fatto furbescamente per portare via posti di lavoro ai direttori del Nord, che poi restano a casa, non è che fanno altro, restano a casa. Sono queste le cose che danno un enorme fastidio nelle in certe regioni. È questo che mina il sentimento nazionale, che noi sentiamo parlare di sentimento nazionale e lo interpretiamo spesso come una scusa per poter in qualche modo lucrare soldi, lucrare posti di lavoro a danno del nord. Questo oggi è tanto più vero in questo momento di gravissima crisi, dove al nord si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro e la gente comincia a domandarsi se è ancora giusto sopportare questo peso. Veniamo alle celebrazioni dell'Unità d'Italia. Qual è il sospetto che c'è in molte parti del paese? Che siano l'ennesima scusa per portare un po' di soldi a Roma. Questo è il sospetto che ci attanaglia. E allora bisognerebbe spazzare il campo da queste cose e ricominciare magari su un terreno magari più oggettivo e quindi su un sentimento che sia un vero sentimento e non semplicemente il sospetto che dietro ci sia soltanto retorica per poter portare avanti una situazione che per molte parti del paese ormai è diventata insopportabile. Pirani, le posso chiedere di concludere con una risposta, una domanda. Secondo lei, questo senso nazionale lo recupereremo, se ho capito bene, solo se ci superiamo definitivamente l'articolazione attuale politica della Seconda Repubblica? C'è una possibilità di tornare a un comune senso condiviso? È questo? Io credo che risponderò rispondendo al ministro Castelli, che ha posto la questione, diciamo, nei suoi termini esatti, anche se rovesciati. Perché oggi scoppia di nuovo la questione dell'unità nazionale, se gli italiani la sentono meno? Perché sta riemergendo, a causa della crisi, il profondo divario tra nord e sud. Dalle statistiche di 2 o 3 anni fa risultava che l'Italia del nord era la zona più avanzata, quasi tra le zone più avanzate dal punto di vista della capacità esportativa del mondo. Eravamo dopo la Germania in Europa. E il sud era la zona più arretrata relativamente di tutta l'Unione Europea. Allora, questo dimostra che la questione meridionale non si era risolta per colpa di, se non sto ad analizzare, le colpe sono equamente suddivise e riguardano anche il Mezzogiorno, riguardano delle regioni e così via. Detto questo, noi oggi ci troviamo di fronte al fatto, se riportiamo la questione meridionale al centro di un federalismo solidale o no, e senza ripetere i vecchi carrozzoni o buttar via di nuovo centinaia di miliardi, ma se riportiamo nel quadro appunto di un federalismo solidale la questione meridionale, cioè l'equilibrio unitario di un'Italia compatibile, oppure se accentuiamo, questo è il pericolo, ma non perché lo dice la Lega, ma perché poi in fondo Tremonti o il governo e anche l'opposizione, io in questo non faccio differenza, spingono in quel senso. Quando vediamo che i danni terribili del terremoto sono stati affrontati mettendo nel terremoto i fondi che erano destinati in parte al Mezzogiorno, noi vediamo che comincia una lotta dovuta alla crisi attorno alle poche risorse che abbiamo tra nord e sud. Grazie a Mario Pirani, grazie a Ernesto Galli della Loggia, grazie a Roberto Castelli, mi scuso con loro e con voi tutti se ho oggi un po' trasceso, però se ha un senso, è un senso fare le trasmissioni e mettere insieme gli ospiti, perché ci si dà una responsabilità editoriale. Io non farò mai il semaforista con i secondi, perché altrimenti divento inutile e voi avete la pretesa giusta che non ci siano conduttori così. Ringrazio loro e ringrazio regia Peter Bescapè, in redazione Alessandro Marco Tulli, appuntamento a domani, ora la linea al giornale radio. Radio 24. La passione si sente.